Ok. Lapsus amnesia. Raptus di follia. Per te. Ragazza di periferia. OBLIO. In trasmissione. 2006. Secoman sul beat. Pioltello Street. Ti porto via. Mi getto a capofitto dal soffitto. Trafitto dalle ombre della notte. Videofonino scarico nel buio che mi inghiotte. Nel mio letto ventennale gelido. Trasudo, medito, ma tutto si confonde. Pensieri zen, flussi di coscienza, fase REM, sì. Come un gomitolo in un angolo, la solitudine mi porta ancora a te. Stanotte sogno te, e non è un caso perché vivi in me. Cresciuta nei sobborghi del quartiere milanese, Fort Apache. Ospedale psichiatrico, polo fieristico, palazzi in bilico, siringhe, pazzi trans. Genitori divorziati che si scannano in un bar, sì. Siciliana, calabrese, mille storie tese tra le compagnie sbarrite dal balcone. Vedi tredicenni già finite, sempre in lite, mentre vittima di regole. Cerchi la tua strada ma sei debole. Ragazza di periferia, da quartiere di Milano. Io ti porto via da questa strada, tu sei mia. Ragazza di periferia, da quartiere di Milano. Io ti porto via da questi giorni da battia. Ragazza di periferia, da quartiere di Milano. Io ti porto via da questa merda prigionia. Ragazza di periferia, da quartiere di Milano. Io ti porto via. Ci siamo conosciuti in un locale di Milano dove fanno i pop, senza sigaretti in uno scantinato, il Rolling Stone. Per una cintura rotta in mezzo a gente poliglotta, un bacio in fretta e tanta voglia. Il giorno dopo nella macchina il mio animo si agita, parole, sesso, ironica, respiro che mi medica. Dicevo sei fantastica, cambiavo la mia ottica, la vita dopo tutto si consolida. Mi hai gettato come sono, tanti miei difetti, pochi miei capelli, discorsi sconnessi, contraddittori ma non cessi di capirmi, tu sei unica, ricca dentro come musica. Brivido immenso nel tuo bagno, nel salotto, non dimentico il caffè che mi prepari. La tua semplicità e particolari come gesti naturali. Massaggi in camera con l'olio, dimentico la troia della Biblio. Ragazza di periferia, da quartiere di Milano. Io ti porto via da questa strada, tu sei mia. Ragazza di periferia, da quartiere di Milano. Io ti porto via da questi giorni da battia. Ragazza di periferia, da quartiere di Milano. Io ti porto via da questa merda prigionia. Ragazza di periferia, da quartiere di Milano. Ti porto via. Nel potere della bramosia, dammi il frutto, il companatico che accende la magia. Portami via da fango asfalto, campi arati, tramonti soleggiati. Mi sublimano soltanto i tuoi peccati. Sei la fede che vorrei seguire per tutta la vita, il filo logico, la retta, la salita. Se non mi stai vicino il mio passato mi attanaglia, troppi tagli e la zizzania mi assassina. Ragazza di periferia, da quartiere di Milano. Io ti porto via da questa strada, tu sei mia. Ragazza di periferia, da quartiere di Milano. Io ti porto via da questi giorni da battia. Ragazza di periferia, da quartiere di Milano. Io ti porto via da questa merda prigionia. Ragazza di periferia, da quartiere di Milano. Ti porto via. Non so se stare sveglio a pensarti o addormentarmi con la speranza di sognarti. Ti porto via da questo schifo, da questa merda di quartiere, da questa vita che non paga. Insieme siamo forti. 006 Oblio.